Nikitafuta nyota ase, mutima wangu ukachoma sana ase, rugendera wangu. Nikitafuta nyota ase, mutima wangu ukachoma sana. Kisa cha damu msalabani, ulini wai wai wai. Tunajilenga kama deni, unani dai dai dai. Kisa cha damu msalabani, ulini wai wai wai. Tunajilenga kama deni, unani dai dai dai. Wako minanga sana, weni nyota yo. Kwangu zaidi ya star baba, weni nyota yo. Wako minanga sana, weni nyota yo. Kwangu zaidi ya star baba, weni nyota yo. Navyo kuimbia eti na bendaria laiti wangelijua bali ulikonitoa. Navyo kuimbia wangelijua zile tanda primo kaptula mashimo umenifanya gumzo imekuwa ndo sivyo. Zile tanda primo kaptula mashimo umenifanya gumzo imekuwa ndo sivyo. Wangu nyota wako minang'aa sana, weni nyota kwangu zaidi ya star baba, weni nyota wako minang'aa sana, weni nyota kwangu zaidi ya star baba, weni nyota. Damu msalabani, ulini wai wai wai. Siwezi lenga kama deni, unani dai dai dai. Kisa cha damu msalabani, ulini wai wai wai. Siwezi lenga kama deni.